Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo nella seconda ora del programma della trattativa sul bilancio europeo, è appena iniziata con il Consiglio europeo, c'è chi spinge il Partito Popolare Europeo per un bilancio dell'Unione Europea che superi l'1% del PIL complessivo dell'Unione Europea, quindi stiamo parlando sostanzialmente di un livello più alto rispetto ai livelli degli ultimi bilanci europei. Germania scettica e non solo, vorrebbe dire la proposta che è arrivata dal Presidente del Consiglio europeo di un bilancio all'1,074% del PIL porterebbe il bilancio dell'Unione europea a 1.094 miliardi di euro. Il negoziato appunto partirà da questo punto di vista tra tre giorni in maniera ancora più insistente il 20 febbraio durante il Consiglio straordinario, e di questo parleremo anche del Brenner. Era un tema che volevamo affrontare la scorsa settimana, poi per motivi di spazio non ce l'abbiamo fatta. C'è stato l'incontro venerdì scorso tra il commissario europeo e il ministro italiano Paolo De Micheli, perché l'Austria sta minacciando, in parte ha già applicato blocco al transito, alcuni blocchi al transito dei TIR. Anche l'Alto Adige vorrebbe un'azione analoga. Sullo sfondo c'è un tema annoso che non si risolverà in maniera facile almeno fino al 2028, quando è previsto l'apertura del raddoppio del Brennero, e quindi potranno essere caricati sui treni i camion, i TIR, la dico per farmi capire. Il tema è che la maggior parte di queste merci che transitano nel Brennero per l'Italia vanno in altri paesi, appunto vanno in Italia, vanno nei paesi del nord, non sono merci che chiaramente non è un traffico che riguardi se non in maniera marginale le aree che vengono interessate, però faccio notare che dal Brennero circola il 70% di tutte le merci che escono o entrano dall'Italia, quindi per noi è uno snodo fondamentale. In apertura invece i temi di casa nostra. Allora, per quello che riguarda i mercati, anche Brennero è un tema di casa nostra, anche il bilancio europeo, ma temi più nazionali, volevo dire, per quello che riguarda i mercati, oggi chiusa Wall Street, c'è il President's Day, e quindi le borse europee viaggiano da sole: Parigi più 0,30, Francoforte pure, Londra più 0,30, Milano più 0,87%, è tra le migliori, bene UBI Banca più 5,40, Banca BPM pure, 4,20% rialzo di Pirelli, 4% di Nexi, il 3,60 di Biper, Prismian più 2,1, Unicredit più 2, Ferrari più 1,80, ricordati pure. Di negativo c'è solo ST Microelectronics meno 2,90, Leonardo meno 1,20, Campari meno 0,70 e Azimut, naturalmente tra i titoli a maggiore capitalizzazione. Dicevo in apertura tratteremo di temi più italiani, perché? Perché da un lato torneremo sul mille proroghe che va comunque... verrà messa la fiducia sul decreto, ormai lo sappiamo, ma al di là dell'iter parlamentare che appunto ha iniziato il suo iter alla Camera, il decreto mille proroghe ha avuto, si chiama così perché accoglie le misure più diverse tra loro, e tra l'altro accoglie anche alcuni interventi legislativi che magari non sono entrati o che non sono riusciti a entrare nella manovra di bilancio. Ci sono alcune novità importanti, una riguarda l'RC auto familiare con il malus, e cercheremo anche di capire in che modo si applicherà il malus e che cosa vuol dire la RC auto familiare. Sostanzialmente in una famiglia ci sarà la possibilità di assicurare un veicolo anche di categoria diversa, per esempio uno scooter, una moto, con la miglior classe di merito disponibile all'interno del nucleo familiare. Magari la moglie, di solito nel caso mio non sarebbe difficile visto il numero di multe che ho preso in questi anni, ma insomma, però incidenti però pochi, dicevo la classe di merito migliore è quella con cui puoi assicurare anche un veicolo di categoria diversa. Quello che però ha fatto storcere un po' la bocca a molti osservatori è il fatto che è stato inserito nel testo modificato anche il malus, e cioè però ad applicarsi solo al mezzo che causa l'incidente, mentre gli altri componenti non subiranno alcuna penalizzazione. Per cui il timore era che il malus poi si estendesse anche all'interno di una logica dell'RC auto familiare anche agli altri mezzi. Così non sarà, e tra l'altro in caso di sinistro con danni superiori ai 5.000 euro, al successivo rinnovo la compagnia assicuratrice potrà attuare un declassamento di 5 classi di merito. Contraria l'ANIA, l'associazione delle assicurazioni, che dice è una norma sbagliata perché sfrutta la condotta virtuosa di uno dei familiari a prescindere dalla storia di guida degli altri membri della famiglia e scardina il sistema di bonus malus. Poi abbiamo visto vari esponenti dire per esempio che avvantaggia le famiglie più abbienti perché là dove si trovano magari due automobili e uno o due scooter o motorini, non le famiglie meno abbienti. Però questo mi sembra un tema marginale, nel senso che è chiaro che se tu fai un RC auto familiare il vantaggio più grosso sarà per le famiglie che non hanno solo un'automobile ma hanno una o due automobili o un'automobile e degli scooter. Cioè, questo allora vuol dire criticare il principio stesso dell'RC auto familiare. Altra cosa invece è la penalizzazione, il malus, le 5 classi di merito che sono pesanti. Dunque, di questo parleremo. L'altra cosa, toccheremo anche altre misure di pagamenti tracciabili per la detrazione del 19% della dichiarazione dei redditi, nessuno rinvio ad aprile, quindi dal 1 gennaio chi vuole poi ottenere la detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi deve usare pagamenti tracciabili, carte di credito e quant'altro. E invece ci sono i medici in corsia che potranno restare fino ai 70 anni. Poi c'è il fronte che non c'entra con il mille proroghe in senso stretto, perché però è oggetto di nuove entrate, di novità, mi riferisco al bonus facciate che è diventato operativo venerdì 14 febbraio. È una cosa importante perché onestamente permette la detrazione fiscale del 90% in 10 rate annuali di pari importo delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici. Tra l'altro lo permette anche a chi è in affitto, a patto che il proprietario appunto sia d'accordo. Il 90% di detrazione non è poco, poi dipende qual è la tua pressione fiscale, ma insomma è una cifra consistente. Infine, per quello che riguarda altre notizie che tratteremo, la vicenda Air Italy, perché vorremmo capire che cosa succederà, che cosa sta succedendo a chi ha un biglietto Air Italy dopo il 28 febbraio. Molti l'hanno comprato, c'era la tratta anche verso gli Stati Uniti, e quindi ho capito il ricollocamento dei voli. Ma e l'altro elemento è che cosa succederà all'iter della liquidazione, perché il codice civile lo fissa in 75 giorni di tempo, 75 giorni il tempo per dar corso al licenziamento collettivo. E va avanti anche la trattativa. Giovedì vi sarà l'incontro del Ministero tra Regione Sardegna, Regione Lombardia e i sindacati sulla vicenda Air Italy. Ricordo anche che il 25 febbraio ci sarà uno sciopero di 24 ore del sistema aereo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Ho visto che parlavo di Erita, è arrivata poco fa una notizia di Alitalia che secondo varie fonti starebbe pianificando la chiusura da aprile di due tratte di lungo raggio, Seul e Santiago del Cile, e poi è prevista l'uscita nel corso dell'anno per la scadenza del contratto di leasing di alcuni aerei, due A330 e un Boeing 777-300, sono tutti aerei di lungo raggio, e anche qualche aeromobile di corto raggio. Bye. Notizie di carattere internazionale. Beh, allora devo dire, vedo un rapporto di Nomura, mi riferisco a coronavirus, che prevede, Nomura è un importante gruppo bancario giapponese, che dice che l'Italia potrebbe andare in recessione come effetto del coronavirus, visto la debole crescita prevista nel 2020. Beh, insomma, più 0,3% o più 0,2% stimato, è chiaro che ti mette a rischio, perché basta un niente per andare o a zero, anche lo 0,2 è zero, però per andare a 0,2 o andare in recessione. Gli Stati Uniti, noi invece abbiamo, si può dire, sfangato, abbiamo evitato i dazi su un insieme di prodotti alimentari italiani, per ora, spero almeno per sempre, ma insomma per ora li abbiamo evitati, mentre gli Stati Uniti hanno deciso di aumentare i dazi sui velivoli Airbus importati dall'Europa dal 10 al 15%, critica Airbus la decisione, è un grande dispiacere, però l'Italia è uscita indenne, dicevo, dalla revisione degli Stati Uniti, e quindi purtroppo restano penalizzati i salumi e i formaggi pecorino, grano padano, parmigiano reggiano, ma non sono entrati altre tipologie di amminite, di vino, ma non solo, che su cui c'era un fortissimo timore, quindi per ora è andata bene. Il Giappone, prima ancora di vedere se vi saranno effetti del coronavirus, faccio notare che l'economia giapponese negli ultimi tre mesi del 2019 ha registrato il peggior andamento economico degli ultimi sei anni, meno 1,2% rispetto all'anno prima, e il calo è del meno 6% del PIL, è un tracollo vero e proprio, rallenta l'export, rallentano anche gli investimenti aziendali. Dunque, l'aggiornamento dal coronavirus: mentre la banca centrale cinese ha immesso altra liquidità, circa 30 miliardi di dollari al tasso del 3,15%, ribassato dal tasso precedente del 3,25%, e quindi continua la banca centrale cinese a pompare liquidità per evitare che vi siano appunto tensioni nel credito. La Toyota ha annunciato che ha parzialmente ripreso oggi la produzione in Cina, i suoi quattro impianti sono ripartiti, mentre altri due bisognerà attendere fino al 24 febbraio o più tardi. Anche Honda ha riavviato le operazioni nelle tre fabbriche del Guangzhou, invece la fabbrica Wuhan, che è la città focolaio dell'epidemia, è attesa per il 24 febbraio oppure dopo. Veniamo all'Italia, la borsa l'abbiamo già data, lo spread è stabile a 131 punti base. Il coronavirus, ne ha parlato oggi anche il ministro dell'economia Gualtieri da Bruxelles, dove appunto ne parleremo dopo, dove si è tenuto un primo incontro per capire che linea prendere sul budget europeo. Gualtieri al microfono del nostro Sergio Nava ha detto, insomma, è ancora prematuro fare una stima dell'impatto del coronavirus, monitoriamo gli effetti economici, potrebbero essere possibili misure economiche, e poi ha così commentato l'andamento, le ultime previsioni sull'andamento della nostra economia, siamo fanalino di coda secondo la Commissione Europea nel 2020 e le misure prese dal governo. La Commissione ha rivisto 0,01 a ribasso le previsioni di crescita dell'Italia, come di numerosi altri paesi, prendendo atto dei dati del particolare dell'ultimo trimestre e dell'ultimo mese del 2019, che hanno un effetto di trascinamento, come loro stessi hanno scritto. Peraltro, se legge le previsioni, c'è anche scritto che uno dei fattori che ha sostenuto invece la crescita e i consumi è esattamente il reddito di cittadinanza. Lo dico non perché consideri questa misura perfetta, è perfettibile dal punto di vista della componente di sostegno alle politiche attive per il lavoro, ma perché è un dato che anche la Commissione Europea ha sottolineato. Quindi, come ho detto, noi non elimineremo questa misura, che nel programma di governo non costituisce una novità. Io penso, al contrario, che le misure cui il governo che ha introdotto nella legge di stabilità e su cui sta lavorando sono misure che sostengono la crescita, e lavoriamo alla loro attuazione con ancora maggiore determinazione. In particolare, il rilancio degli investimenti pubblici e privati è la priorità, così come oggi discuteremo dell'effetto positivo della riduzione del cuneo fiscale, legato invece a una migliore definizione della tassazione ambientale, e noi ci presentiamo con una misura positiva che entrerà in vigore dal 1 luglio, che sarà anch'essa uno stimolo alla crescita. Oh, adesso una cosa la voglio dire al ministro Gualtieri, che per carità deve, come molti ministri dell'economia, deve essere ottimista, non deve, però prima o poi, appena il governo sarà uscito dallo scontro all'interno della sua maggioranza con Italia Viva, prescrizione, tutte queste cose così appassionanti, devo dire, nel momento in cui c'è il coronavirus in tutto il mondo e l'Italia è l'ultima nella crescita in Europa, il governo dovrà prendere atto che anche se tutto dovesse andare bene, cioè l'impatto del coronavirus sarà marginale o verrà recuperato nel corso dell'anno, le stime previste sono allo 0,2. C'è chi dice 0,1, c'è chi dice 0,2, c'è chi dice 0,3. Il governo però ha stimato uno 0,6, che è sempre poco, ma è esattamente il doppio se tutto va bene. Questo perché lo dico? Perché poi è ovvio che quando dovrà iniziare a ragionare sul DEF e poi sulla manovra di bilancio, sulla finanziaria, il rapporto deficit-PIL, se il PIL non fa più 0,6 ma fa 0,3, cambierà in negativo, quindi a vantaggio del deficit e di un deficit più alto, e devi iniziare a ragionare su che cosa fai, che cosa chiede l'Europa. Cioè è inutile continuare a dire adesso va benissimo il cuneo fiscale, va benissimo aver disincentivato l'IVA, ma ormai lo sappiamo, anche perché poi il cuneo parte da luglio. Che cosa facciamo nei prossimi mesi? Che iniziative portiamo in Europa? Cosa andiamo a chiedere in Europa? Visto che ognuno si sta difendendo, come bene ha ricordato anche un'intervista sul tema aerospaziale, magari vi arriveremo, la Francia vuole sostanzialmente favorire solo le aziende francesi in tutto il programma aerospaziale europeo, qui però i soldi sono anche italiani, ma al di là del caso, diciamo, aerospaziale, nulla di nuovo per quello che riguarda la Francia. Però che cosa andiamo a chiedere a Bruxelles? Con che trattative? Il professor Piga da questi microfoni disse, uno va lì e dice basta, 2,9%, 2,99%, stiamo sotto il 3%, ma dobbiamo fare un piano di investimenti importanti. L'alternativa è che, cari miei, qua non reggiamo, si va a elezioni, lo dico proprio per farmi capire, e poi non vi lamentate se vinceranno altri partiti. Cioè voglio dire, devi andare con una capacità contrattuale a Bruxelles, o facciamo finta che manteniamo ancora lo 0,6% di crescita. Capisco, sparge l'ottimismo, ma poi c'è anche il, non dico il pessimismo, ma c'è anche il realismo, ministro. Ultima notizia riguarda il reddito di cittadinanza. Oggi l'INPS ha diffuso dati aggiornati sul mese di febbraio, e quindi sono i più freschi che abbiamo. Allora, il reddito è erogato a 1.220.000 famiglie e persone tra reddito e pensione di cittadinanza, 60.000 l'hanno perso, quindi le famiglie sono, gli individui sono 933.000 per il reddito di cittadinanza, scusatemi, le famiglie titolari del reddito sono 933.000 per un totale di 2 milioni e mezzo di individui, e le famiglie con una pensione di cittadinanza sono 126.000 con 143.000 persone coinvolte. L'importo medio è di 496 euro. Finora sono stati spesi nel 2019 3 miliardi e 900 milioni di euro, con un risparmio di 1 miliardo e 8 rispetto a quanto inizialmente stanziato dal governo giallo-verde, di 5 miliardi e 600 milioni. Il 67% del 1.677.000 domande sono state accolte. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora partiamo da una novità minore che non rientra nel mille proroghe, poi invece andiamo al mille proroghe. Novità, visto che parliamo spesso della crisi dell'edilizia, è un piccolo contributo, ma nemmeno così piccolo, perché sappiamo che i nostri centri, non solo quelli storici, ci mancherebbe, ma anche insomma, i semicentri, le periferie, hanno spesso bisogno di ristrutturazioni. La detrazione è oggettivamente molto importante, il 90% di quanto speso per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici. Cristian dell'host del Sole 24 Ore, buonasera Cristiano. Buonasera. Dunque, dicevo 90% in 10 rate annuali di pari importo, come funzionerà questa detrazione fiscale e soprattutto che limiti ha, se vi sono dei limiti? Sì, sarà una detrazione sulla falsariga di quelle che ormai molti proprietari di immobili conoscono bene, nel senso che sono detrazioni che vanno a premiare la spesa per un certo tipo di ristrutturazione edilizia, in questo caso gli interventi fatti sulla facciata esterna dei fabbricati, e consentono di recuperare una percentuale appunto spalmandola in un periodo che è generalmente di 10 anni. In questo caso la percentuale raggiunge il record, perché mai nei 20 anni più di esperienza di detrazioni sul recupero edilizio si era arrivati a restituire appunto il 90%. Quali preclusioni ci sono? Ma l'elemento chiave riguarda intanto il tipo di facciata, nel senso che sono premiati i lavori sulle facciate esterne, vuol dire che quelle che si trovano all'interno di un cortile, per esempio, o all'interno di che circondano un cavedio, non sono agevolati dal bonus facciate. Potranno avere invece, a seconda del tipo di intervento, altre detrazioni che già sono in vigore, che già erano in vigore, ad esempio quella del 50% sul recupero edilizio o quella del 65% sui cappotti termici. Poi c'è un altro grosso limite che riguarda la collocazione degli immobili, che devono essere nelle zone urbanistiche A e B. Questa è una cosa che ha fatto un po' discutere, perché poi il riferimento di queste zone A e B è contenuto in un vecchio decreto ministeriale del 68, figurati, emanato prima che venissero addirittura istituite le regioni, che poi nel frattempo hanno spesso dettato delle normative differenti, e quindi oggi quello che deve fare in sostanza il cittadino è andare a farsi rilasciare una certificazione dall'ufficio comunale, il cittadino o il professionista che lo segue ovviamente, farsi fare una certificazione dallo sportello comunale per l'edilizia che gli dica appunto che quella zona, se non A, è comunque una equivalente alla zona A. Poi cosa vuol dire A e B? Sono sostanzialmente i centri storici e le prime zone periferiche. Questo esclude per esempio le aree di campagna, le aree meno densamente edificate e così via. Allora, molti ascoltatori mi chiedono, c'è un limite alla spesa? Questo è un altro aspetto interessante. No, il limite non c'è. Ricordiamo che per la detrazione, diciamo, normale, quella sulle ristrutturazioni edilizie, il limite è di 96.000 euro per unità immobiliare. Quindi in condominio di fatto nessuno arriva a sforare il limite con interventi normali, perché vorrebbe dire 96.000 euro per ogni singolo alloggio di cui è composto il fabbricato. Però in questo caso il limite non c'è, e la cosa diventa interessante per gli edifici singoli, perché invece per esempio se pensiamo a una villa o a un'abitazione monofamiliare che rifaccia 4 facciate, beh, in quel caso superare i 96.000 euro non è impossibile, anche perché c'è un altro aspetto importante di cui non abbiamo detto, ed è che quando si interviene su più del 10% della superficie dell'edificio bisogna fare un cappotto termico, cioè bisogna raggiungere determinati requisiti di isolamento, e questo da un lato rende l'intervento più pesante dal punto di vista edilizio, dall'altro ne aumenta anche i costi. Sì, e poi però lì c'è l'agevolazione sul cappotto termico o resta invece al 90%? Ecco, questo è un aspetto interessante che hanno chiarito le entrate venerdì scorso. Anche il cappotto termico va al 90%, cioè in quel caso lì tutta la spesa va tutta, quindi al 90%. Se il cappotto termico il termine mi fa un po' impazzire. Comunque, se il cappotto termico è messo per la facciata, va al 90%, non al 50%. Allora, è il caso di dire, come fa un ascoltatore, che è un intervento non di facciata in questo caso, sulle facciate, esatto, ma non è di facciata, perché così 90% è bello pesante, come, per fortuna, come detrazione fiscale. Un'ultima cosa, l'avevo già chiarita, però vorrei la tua interpretazione, diciamo, autentica. Non serve essere proprietari, ma occorre la firma del proprietario, cioè se io sono in affitto? Allora, in questo caso, con il consenso del proprietario, possono detrarre anche gli inquilini, coloro che hanno l'immobile a titolo di comodato, per esempio il figlio che abita nella casa dei genitori, il convivente, cioè la moglie che magari abita nella casa di proprietà del marito o viceversa. Una precisazione importante, sono agevolati anche gli immobili non residenziali, quindi anche le palazzine a ufficio, magari vecchi capannoni industriali che si trovano ancora nell'area centrale della città, e possono detrarre anche i soggetti diversi dalle persone fisiche. La detrazione è anche IRES, quindi anche le società di capitali, gli enti non commerciali e così via. Allora, palazzo storico con cappotto termico, mi chiede un ascoltatore. Beh, è chiaro che ci sono i vincoli poi delle belle arti, no? Non è che adesso copriamo con un cappottone, con un lode in un palazzo medievale, dai ragazzi, su, cerchiamo di capirci. Allora, grazie intanto a Cristiano dall'Oste, dell'Oste, e poi invece dopo il metro e la pubblicità andiamo sul mille proroghe vero e proprio, a partire dalla cosa che sta facendo più discutere, l'RC auto familiare, che è una possibilità, lo dico che mi sta scrivendo, non è un obbligo, non è che improvvisamente uno, però è la cosa che fa più discutere, è l'introduzione del malus, e quindi, ma è poi stato specificato a che cosa si applicherà. Dopo il metro e la pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti, molti mi chiedono ma durerà solo quest'anno il bonus facciata? Allora, di solito i bonus vengono poi rifinanziati, però il governo non te lo dice mai adesso, anche perché perderebbe l'effetto, cioè se ci deve essere un incremento, il mio consiglio è intanto chi ha in mente di farlo a tempo da qua a dicembre, lo faccia adesso, ripeto, è raro vedere che un bonus scompare completamente l'anno successivo, ma magari a fronte di difficoltà di finanza pubblica può ridursi l'ammontare, magari dal 90% scende al 50%. Io dico, per non saper né leggere né scrivere, se uno ha in pianificazione una cosa del genere lo faccio adesso. Veniamo invece a mille proroghe, che ha tante cose al suo interno, si chiama mille proroghe perché c'entra dentro, come dicono i ragazzi giovani, la qualunque, però la cosa più importante è l'RC auto familiare. Cito altre due o tre cose. Nessun rinvio per l'obbligo di ricorso ai pagamenti tracciabili per se si vuole avere la detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi, non slitta ad aprile, quindi dal 1 gennaio. Chi vuole poi detrarre dai redditi deve avere un pagamento tracciabile, non può essere in contanti. Nuove regole sui monopattini, e quello i medici in corsia fino a 70 anni potranno rimanere in servizio anche superati i 40 anni di attività, e quindi poi resta a discrezione anche delle regioni. E poi qualcuno mi chiede delle case in campagna. No ragazzi, le zone A e le zone B. Dopodiché per il cappotto termico e altre ristrutturazioni c'è comunque la detrazione del 50%. Però vorrei andare oltre la casa e arrivare alla macchina, quindi al garage. Perché lo dico? Perché l'RC auto familiare parte da oggi. E cosa prevede? Che in una famiglia dove non c'è solo un veicolo, magari ci sono uno o due veicoli e uno o due scooter, si possa applicare anche agli altri veicoli la classe di merito migliore disponibile all'interno del nucleo familiare. Allora, immaginando che non so, la moglie, in questo caso più prudente, adesso, o il marito più prudente, o il figlio, che non so, abbia la miglior classe di merito, io posso appoggiarmi a quella classe di merito. Fin qua, dici, bene. Anche se l'ANIA contesta che in questo modo viene fatto saltare il principio del bonus malus, cioè tu magari sei uno che ha fatto incidenti, ha tamponato, e qua ti becchi una bella classe di merito perché c'è tua moglie che è una santa, viceversa tu sei un single, ti tiene quella classe di merito, cioè si creano un po' di differenze. Il problema che lamentano altri è, oppure tua moglie, oppure ti sei separato, non lo so, comunque il problema che lamentano altri è invece l'introduzione del malus, che viene applicato solamente al mezzo che causa l'incidente, mentre gli altri veicoli componenti del nucleo familiare non subiranno la penalizzazione. Però per danni superiori ai 5.000 euro, che faccio notare non è tantissimo, perché chi purtroppo ha avuto esperienza di danni anche limitati sa che uno specchietto, un fanalino, una botta dietro e ci sei già arrivato all'auto, chiaramente, e ci sei già arrivato a 5.000 euro, e al successivo rinnovo la compagnia assicuratrice potrà attuare un declassamento di 5 classi di merito. Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, la voce anche Radio 24, quando parliamo di mondo dell'auto e di assicurazioni auto, buonasera. Buonasera. Cos'è che non ti convince e cos'è che ti convince? Cioè, che cosa ha ispirato l'idea dell'RC auto familiare da un lato? Sappiamo che c'era un problema, i figli per esempio, i neopatentati partivano da delle classi allucinanti, come se fossero, sì, dei criminali. E quindi E che cosa non ti convince invece? Ma allora sicuramente un minimo bisognava intervenire, però bisogna intervenire soprattutto per diminuire il fabbisogno, perché alla fine cosa succede? Con questa norma non c'è alcun presupposto per diminuire i costi dei risarcimenti, quindi né l'entità dei sinistri né la spesa per risarcire il singolo sinistro. Quindi bene che vada, le compagnie avranno bisogno degli stessi soldi e, non potendo penalizzare per legge le famiglie, dovranno penalizzare tutti gli altri. Quindi è intuitivo questo. Ci sono poi dei problemi ancora più spicci e ancora più diciamo che possono addirittura impedire l'applicazione, perché tu hai parlato adesso di questa questione dei 5.000 euro, ma attenzione che noi nella maggior parte dei casi siamo in un sistema di risarcimento diretto. Nel risarcimento diretto la compagnia, per volere dell'antitrust, non deve sapere quanto è costato risarcire il sinistro, perché lo risarcisce l'altra compagnia, cioè la compagnia del danneggiato. Poi esiste una camera di compensazione che rende oscura questa informazione alle altre compagnie. Questo per un gioco di concorrenza, disse l'antitrust all'epoca. Quindi ci si chiede adesso come si farà, come farà la compagnia a capire se un sinistro è costato più o meno di 5.000 euro, a parte il fatto che tanti sinistri vengono pagati anche a distanza di anni, per cui potrebbero riconoscervi la polizza familiare adesso e poi fra un anno dirvi no, ci siamo sbagliati, perché nel frattempo abbiamo scoperto che un sinistro è costato più di 5.000 euro, quindi dobbiamo revocarle il beneficio. E questo mi sembra già un casino. Però c'è un altro elemento che l'ANIA, vabbè, che rappresenta la compagnia assicuratrice, giustamente parla a nome delle compagnie assicuratrici, dice qui salta il principio del bonus malus. Ora, per carità, al di là della posizione degli assicuratori, però è vero che c'è qualcosa che leggermente mi sfugge, cioè quello che dicevo prima, nel senso che io posso essere un cittadino che ha fatto qualche incidente, non sono nella categoria, nella classe peggiore, ma classe mediana, e magari c'è un mio coetaneo, un mio omologo, che ha fatto più incidenti di me, avrebbe anche una classe peggiore della mia, e in realtà se la becca migliore perché sua moglie o suo figlio è uno stinco di santo. Allora, questo diciamo che vale soltanto all'inizio, perché se uno poi fa incidenti perde classi. Il problema però del perdere classi è che questa questione della penalizzazione di 5 classi vale soltanto per i sinistri commessi con un veicolo diverso. Cioè se io figlio prendo la mia prima classe sulla mia moto perché mio padre con la sua auto l'ha conquistata col sudore della fronte, allora io figlio con la moto vengo penalizzato di 5 classi. Io figlio con un'auto invece vengo penalizzato, si presume, soltanto normalmente, cioè con le solite due classi che perde chiunque commetta un sinistro. Per cui anche qui c'è una sperequazione voluta da questo emendamento, ed è tra l'altro una sperequazione che la gente capisce molto poco. In queste ore gli agenti assicurativi si stanno dando da fare e stanno perdendo anche molto tempo per cercare con i loro clienti. Okay. Però qui torniamo alla domanda iniziale, scusami, perché si è fatta? Perché ovviamente per dare un segnale, e devo dire che inizialmente questo segnale era rivolto soprattutto al sud, nel senso che si era tentato inizialmente di introdurre per il sud, per chi aveva la prima classe al sud, lo stesso trattamento tariffario di chi era al nord. Questa cosa è stata per la terza, quarta volta, ormai se ne parla da 15 anni, bocciata, perché ovviamente quelli di Aosta, e anche giustamente, non ci stanno, perché sarebbero loro ad essere penalizzati, e quindi si è ripiegato su questa polizza famiglia, che non è altro che l'estensione di un'altra formula analoga che ha avuto molto successo, è la famosa Bersani del 2007. Infatti non c'era già la Bersani? Sì, esatto. Quello che è stato l'estensione è il fatto di valere anche per veicoli di diversa categoria, perché Bersani valeva auto con auto, moto con moto, e in più vale questa estensione anche per i mezzi che sono già nel parco auto familiare, mentre la Bersani la riconosceva soltanto per quelli che si andavano ad aggiungere. Dunque, mi scrive un ascoltatore, ma il nulla cosmico create le polemiche sul nulla? No, guardi, non c'è nessuna polemica che stiamo creando, però siccome ci sono decine di altri ascoltatori che scrivono, perché non si capisce, alcuni lamentano il fatto, ma perché mio figlio deve avere la mia classe se io ci ho messo 10 anni, 20 anni di corretto comportamento, avere una classe alta, lo trovo quasi sbagliato dal punto di vista, diciamo così, del messaggio che arriva. E non solo, qui è anche un problema di equità, perché qui per venire incontro alle famiglie, allora dobbiamo considerare che stiamo parlando di famiglie che possono permettersi di avere più di un veicolo. Quelli che realmente non possono permettersi rimangono con un solo veicolo e quindi addirittura verranno penalizzati, perché su quello lì pagheranno di più proprio per finanziare il vantaggio che si dà a chi ha più veicoli. E lei ha ragione, allora se abbiamo visto era... il Cimbri, il capo di Unipol, che ha detto nel fine settimana è una norma che è a favore delle famiglie più abbienti e meno a favore delle famiglie meno abbienti, sì. Dove tu hai un solo veicolo e non puoi giocare su questo. Vabbè, diciamo che per come l'ho capito non mi fa impazzire, ma chi se ne frega del mio giudizio. Intanto grazie per la chiarezza, Maurizio Caprino. Andiamo sul traffico e poi la vicenda Italy, non per raccontare di nuovo che cosa abbia portato al fallimento, ma le modalità con cui due soci, e quindi Alisarda Aga Khan col 51% e Qatar Airways col 49%, hanno dichiarato la liquidazione in bonis per un gruppo che ha 1450 dipendenti, con tutti i problemi anche di migliaia di italiani, o comunque di migliaia di viaggiatori che avevano comprato i biglietti anche oltre il 28 febbraio. Air Italy non volava solo su Olbia, è chiaro che molti hanno detto aveva preso il posto di Meridiana, volava anche sugli Stati Uniti e su tante altre destinazioni, e si sta cercando di capire come verranno ripartiti, ricollocati questi biglietti. Focus Economia. Dunque, ho detto 28 febbraio e 25 febbraio, perché fino allora tutti i voli Air Italy saranno operati da altri vettori negli orari, nei giorni già previsti. Vorrei capire che cosa succede dopo il 25 febbraio, perché appunto Air Italy volava anche non solo ad Olbia, ci mancherebbe, ma volava anche in Europa e negli Stati Uniti. E che cosa sta capitando e rischia di capitare ai dipendenti, visto che la legge prevede che una volta annunciata la liquidazione tu abbia 75 giorni di tempo per dar corso al licenziamento collettivo. Gianni Dragoni da Sole 24 Ore, buonasera Gianni. No, lo stanno collegando. Allora, nel frattempo la ministra De Micheli ha chiesto ai liquidatori di cambiare la procedura, perché la liquidazione danneggia pesantemente i lavoratori, la possibilità di garantire il trasporto aereo sulla Sardegna, la continuità territoriale. Ecco Gianni Dragoni, buonasera Gianni. Buonasera Sebastiano e ascoltatori. Allora, che cosa succede ai lavoratori, ma e che cosa succede a chi ha acquistato il biglietto dopo il 28 febbraio? 25, non so. Sì, 25. Ma allora, questi giorni ci sono state un po' di caos, certamente. La compagnia dice che dopo il 25 febbraio, e partiranno da domani le proposte, ai passeggeri verranno fatte delle proposte per la cosiddetta riprotezione, perché fino al 25 volano, non vola Air Italy, ma negli stessi orari volano, hanno organizzato degli altri voli. Dopo invece dovranno, diciamo, accomodarsi i passeggeri che hanno un biglietto per quel periodo su altri voli, quindi potranno cambiare gli orari, però con lo stesso biglietto valido. E da domani verranno comunicate, questo dice Air Italy, ai passeggeri in questa situazione, verranno comunicate le possibilità, e se le proposte per orari o per situazioni non fossero, diciamo, accettabili, i passeggeri dovrebbero, uso il condizionale perché a volte ci sono degli inconvenienti, ma la compagnia dice che hanno diritto al rimborso del biglietto. Ma che tempi vi sono per il rimborso? A parte il fatto che quando tu hai preso un volo, penso a New York, non ti basta solo dovrai, certo, comprare soprattutto se l'hai pagato scontato. È pagato scontato, e poi magari hai prenotato l'albergo, c'è la penale per l'albergo, insomma diventa tutto più complicato. Sì, infatti, non stai andando diciamo in giornata a Olbia e ritorno, che magari ti riproteggi su qualcos'altro, e vale anche per altre destinazioni. Prego. Ci sono voli a lungo raggio, ritorni di voli a lungo raggio, e ci sono voli nella rete più a breve raggio. Certamente quello è il problema maggiore, i tempi non sono precisati. Comunque, siccome la società dice che gli azionisti hanno messo a disposizione una somma per andare avanti, insomma, per provvedere alle spese necessarie, oltre che per continuare a pagare i dipendenti, perché al momento i dipendenti sono al lavoro o sono comunque, non sono sospesi, non sono licenziati, non è vero che ci sono le lettere di licenziamento. Io immagino, non so, che i tempi possano essere, però qui esprimo una mia previsione, senti, possono non essere troppo lunghi. Cosa vuol dire quando il ministro chiede, diciamo, o si sta ragionando sulla strada della cessione del ramo d'azienda? Ma vuol dire che sì, vuol dire che si ipotizza, qui è una società privata, quindi può fare delle procedure, anche potrebbe farle anche delle trattative dirette se ci sono degli interessati, senza necessariamente fare dei bandi come abbiamo visto fare per l'Italia, per esempio, cioè bandi di gara, ma può voler dire che si cercano, se ci sono degli interessi o che si sono manifestati di possibili compratori, e quindi il ramo d'azienda vuol dire non tutta la società, che vorrebbe con sé anche l'indebitamento. No, ho capito, ma solo una parte. I pezzi delle parti. Cosa vuol dire allora? Una parte di slot, una parte di rotte, una parte di dipendenti, ecco questo. Gianni, in un titolo, perché ho 30 secondi, mi chiedono ascoltatori che magari hanno perso gli approfondimenti delle settimane scorse, il titolo sul perché è fallita Air Italy. Ma Air Italy è fallita perché con l'ingresso di Qatar Airways hanno puntato a uno sviluppo anche nel lungo raggio, hanno parlato di un piano di investimenti che in realtà non è stato realizzato, fino a 50 aerei, ma investire nel lungo raggio significa, e in parte lo hanno fatto, significa affrontare anche dei costi, degli oneri, se non hai la rete di alimentazione dei voli a lungo raggio con altri, e loro hanno fatti da Malpensa, gli aerei per un po' di tempo viaggiano vuoti, questo è successo a Italy. Poi devi avere delle tariffe che reggano la concorrenza, hanno fatto voli per New York dove da Milano ci vanno già 5 compagnie americane, cioè tra le americane e l'Italia e la Emirates, il volo di Emirates da Milano a Malpensa a New York anche ha molto disturbato, forse bisognava pazientare qualche anno in più prima di partire, di fare il passo. L'Aga Khan non era disponibile a ricapitalizzare ancora e quindi Qatar, che non può superare il 49% per leggi europee, certo, ha alzato le braccia anche Qatar. Grazie a Gianni Dragoni, devo andare assolutamente sul GR24 e poi parliamo appunto del bilancio europeo, del tema del Brennero, del blocco ai tir che vorrebbe l'Austria e in parte anche l'Alto Adige. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Attenzione! Con Uliveto vinci migliaia di buoni spesa da 50 euro. Uliveto è una fonte di calcio altamente assimilabile. Acquista Uliveto, troverai una cartolina con tante preziose informazioni. Cancella i quattro amici della salute delle ossa e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 50 euro. La spesa te la offre Uliveto. Quando si parla di affidabilità, l'esperienza vale più delle parole. Scegli BNL, da oltre 100 anni sul territorio e la solidità di un gruppo internazionale. BNL Gruppo BNP Paribas, la banca per un mondo che cambia. BNL.it, messaggio pubblicitario. Allora, non posso perdermi la prima serata. I miei follower aspettano i miei commenti. Grazie mille. Ora posso tornare sul divano? Sì, amore, però mi fai grattini. Un vero professionista non smette mai di esserlo, come Fiat Professional Talento, con volume di carico fino a 8,6 metri cubi. Oggi con canone da 138 euro al mese, TAN 380, tasso leasing 3,92. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 29 febbraio. Info su fiatprofessional.it. I miei rifiuti industriali? Io li metto su un camion e via. Un affarone. Però volevo sapere cosa fai tu, Contini. Ma sai, oggi trattare i rifiuti industriali senza rischi penali è diventata una bella sfida. E se non stai attento, zac! Ma li leggi i giornali? Impianti strani, incendi, manette... Io non voglio grane. La soluzione è la gestione Omnisist. Sì, ma cos'hanno in più? Semplice. Progetti concreti e una posizione indipendente. Non hanno impianti né camion e quindi mi consigliano liberamente il meglio. La sfida si vince con Omnisist. Omnisist. La responsabilità ha un nuovo valore. Omnisist.it. Nel 2016 sono stato condannato per omicidio. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Focus Economia. in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E come dicevamo, oggi è stata anche una prima giornata ancora interlocutoria di discussione a Bruxelles per trovare un accordo sul bilancio europeo. Allora vediamo di fare una premessa. La proposta del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel è di un bilancio che rappresenti l'1,074% del PIL di tutta l'Unione Europea, il che tradotto significa 1.094 miliardi di euro. Questa è la base, diciamo così, del negoziato. Però già la bozza è stata definita lo scorso 14 febbraio insufficiente dal Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Secondo il quotidiano tedesco Der Spiegel, Angela Merkel è pronta comunque a un compromesso. Inizialmente la posizione tedesca era contraria a esborsi superiori all'1% del PIL, però dice potrebbe aprire a un modo in cui i partner consentono la riallocazione nel bilancio dell'Unione Europea. Oggi il ministro Gualtieri, presente appunto all'incontro di Bruxelles al Consiglio europeo, ha detto: la proposta di Michel per noi è ancora insufficiente, non ha il grado sufficiente di ambizione. E noi sosteniamo un bilancio quadro finanziario pluriennale che sia sufficientemente ambizioso. Non ci sembra che la proposta presentata da Michel abbia il grado sufficiente di ambizione, quindi sarà sicuramente oggi al Consiglio Affari Generali, dove c'è il ministro Amendola, e poi il Consiglio Europeo, sarà sicuramente una discussione intensa. Dietro la notizia. Eh sì, perché questo è il tema appunto dell'appuntamento con Alessandro Platerotti, come ogni lunedì, editorialista Sole 24 Ore. Dietro la notizia, la voce di Gualtieri che avete sentito era al microfono del nostro Sergio Nava, che appunto a Bruxelles. Alessandro Platerotti, buonasera innanzitutto. Buonasera a te e a tutti quanti. Dunque, nel frattempo il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha detto: per noi la linea è restare stabili all'1% del PIL lordo europeo come contributo. I popolari europei dicono che rifiuteranno qualunque budget insufficiente. Allora Alessandro, visto che l'appuntamento si chiama Dietro la notizia, in realtà di che cosa stiamo parlando quando parliamo di questo scontro / tentativo di accordo sul bilancio europeo? Stiamo parlando di come dividere i soldi all'interno dell'Unione Europea e in più all'interno dell'Unione Monetaria, perché sono due budget differenti. Uno riguarda tutti i paesi dell'Europa e uno con i paesi dell'Eurozona, ovviamente. Stiamo parlando di come verranno allocate le risorse non solo tra i paesi, ma soprattutto tra capitoli di spesa. E qui la partita è molto interessante, perché si riaprirà soprattutto la questione dell'agricoltura. Sappiamo che l'agricoltura è una patata bollente nei rapporti con gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo, perché sostengono che noi boicottiamo l'ingresso dei prodotti agricoli americani. Beh, questa volta l'idea della Merkel sembra un po' allinearsi a questa, dicendo che cosa? Rinunciamo un po' di soldi all'agricoltura e spostiamoli su progetti che vanno a beneficio di tutta l'Unione Europea. Quali sono? Ovviamente quelli infrastrutturali, questi grandi progetti su cui la Germania si sta impegnando e soprattutto la Merkel, per dare risposta a questa idea che c'è un'Europa a due velocità. Ma in tutto questo poi gli affari si complicano. Perché? Perché è cambiato anche un po' il quadro europeo. C'è una sorta di autodifesa a questo punto del sistema continentale nei confronti dei paesi, diciamo così, dei paesi dell'est, e soprattutto di quelli che sono stati accusati negli ultimi anni di essere al di fuori del rule of law, si dice in inglese, ovvero dello Stato di diritto, comunque di quei principi ispiratori dell'Unione Europea. Che è un po' ovvero il blocco di Visegrad. Xenofobia, rispetto dei clandestini, rispetto dei diritti umani. Questi sono i cardini base. Fino a poco tempo fa l'Italia era, con il governo di centrodestra, era un po' allineata sull'idea di non far scattare questa clausola che si chiama la clausola di condizionalità, ovvero o rispetti questi principi oppure non ricevi denaro. E questa è solo una parte, poi ce ne saranno altre. Questo è il primo appuntamento dell'anno per il Consiglio. Ecco, alla luce di quello che tu hai ricordato, cioè che c'è la tentazione anche, non dico di isolare, ma di contingentare alcuni paesi, che io il blocco di Visegrad, ma insomma non sì, solo l'Ungheria, quelli adesso facciamo l'Ungheria, un esempio, per come... ecco, che alleanze si stanno generando dentro i paesi europei? Perché abbiamo visto Sassoli come Presidente del Parlamento dire che così non va, è ancora insufficiente. I popolari europei avere una linea che il budget deve essere ambizioso e non l'1%. La Merkel dire: beh, potrei superare la mia ostilità a stare sotto o al massimo all'1%. Sì, ora diciamo così, c'è un blocco, noi siamo inseriti in questo momento nel blocco dei, chiamano, dei freddi, degli amici della coesione, come vengono chiamati, ovvero di stare uniti e fare tutto l'impatto. Dall'altra parte noi abbiamo soprattutto il blocco dell'Est Europa, che è quello che è più a questo punto con spinte centrifughe rispetto al, alle clausole e agli accordi che sono stati presi. Uno di questi accordi, come sappiamo, riguarda anche gli aiuti di Stato, Sebastiano, perché tu sai che in questo momento se ne parla molto e non soltanto per le banche, ma anche per le compagnie aeree. E qui vengo all'ultimo punto, perché al di là di quello che sarà, diciamo, l'accordo che poi si troverà, è una trattativa tutta politica, tu citavi gli aiuti di Stato. Ora, noi sappiamo che l'Europa della von der Leyen si sta muovendo con ipotesi, poi vedremo quanto concreta, quanti, a vedere cammello, quanti soldi ci sono, su, diciamo, degli investimenti green da scorporare dal calcolo del deficit, una specie di green rule rispetto alla golden rule. C'è chi chiede invece che venga fatta la vera e propria golden rule, cioè lo scopo di tutti quelli che sono investimenti per la competitività dal calcolo del deficit. È un po' scomparso il tema degli aiuti di Stato, lo dico anche contro il nostro interesse, nel senso che noi con l'Italia oggettivamente anni fa saremmo stati più nel mirino. È un tema meno sensibile nel momento in cui l'Europa arranca, Germania, Francia e Italia sono i tre peggiori paesi quanto a crescita economica, in attesa, speriamo di no, di avere altre revisioni a ribasso per via del coronavirus? Allora, c'è una questione che si è inserita in questo momento nel dibattito, riguarda proprio gli aiuti di Stato e si lega anche al bilancio, te la concludo in questi termini. C'è una forte polemica sulla BCE, ossia sulla questione degli aiuti alle banche e così via. Hanno fatto un calcolo e hanno visto che ad oggi il totale della spesa negli ultimi 5 anni è arrivato a 5.800 miliardi di euro. 5.800 miliardi di euro buttati sul mercato o da ridistribuire in altre forme? Questo è il dibattito. Che cosa succederà? Succederà che sugli aiuti di Stato la Germania sta cambiando posizione. Per quale motivo? È tornata ad avere i suoi problemi in casa. Nessuno, pochi si sono accorti, almeno non se ne è parlato in Italia, che poi nemmeno due mesi fa, l'Unione Europea ha dato per la prima volta il via libera a un prestito ponte per salvare la Condor Air. Condor Air, che è una compagnia aerea più o meno come Air Italy, grosso modo, che era in fallimento perché apparteneva al gruppo inglese Thomas Cook, che è andato in bancarotta, doveva essere chiusa e liquidata. Era tedesca, eh? Tedesca, di diritto tedesco. Anche il gruppo era inglese, ma la compagnia era tedesca. Doveva essere liquidata, come è avvenuto per Air Italy, è intervenuto a pie pari a gamba tesa il governo tedesco, ha fatto esattamente quello che ha fatto l'Italia con l'Italia, ovvero ha chiesto un prestito ponte di 450 milioni per la ristrutturazione di Condor Air e il rilancio, apparentemente sottoposta a condizioni anche più ardue di quelle dell'Italia, ma in realtà la compagnia è stata salvata con lo stesso criterio adottato dal governo italiano per l'Italia, e questo toglie pressione. Esattamente. E qui capiamo perché, insomma, poi viene meno la pressione, visto che abbiamo aperto il programma con Air Italy. Dico subito che la vicenda qui è un po' diversa, perché la critica che viene mossa, come ricordavamo, dal governo ai due soci di Air Italy, Qatar Airways e l'Aga Khan, è stato di non aver avvisato il governo in tempo e di aver proceduto con la liquidazione in bonis senza dare il tempo appunto di chiedere eventualmente un prestito ponte, e questo è lo scontro politico, al di là di quello che abbiamo detto sulla gestione, sul perché del fallimento. In questo senso lo scontro politico è quello che usa il consumo dei governi quando non hanno idea di come salvare qualcuno, allora se la prendono con chi. Ma ricordiamo una cosa, proprio giù di tutte le nostre imprese che ci ascoltano: la libertà di impresa è un diritto sancito dalla Costituzione, si può aprire o chiudere un'impresa sulla base di considerazioni che sono dell'imprenditore. Nel caso di Air Italy è un fiasco clamoroso di business, al di là dell'aspetto politico, è una compagnia che non stava in piedi con i progetti che gli aveva dato il suo azionista di riferimento, ovvero il Qatar. Quando il Qatar ha visto che non poteva sostenere uno sviluppo come quello, la nuova Italia l'avevano presentata, sì, certo, ha tirato le carte dal tavolo. È corretto? È scorretto? Sono le leggi del mercato in un momento in cui non abbiamo capitali per intervenire da soli. Grazie ad Alessandro Praterotti, che riavremo ospite lunedì prossimo per Dietro la Notizia. Adesso andiamo sul traffico e poi invece un tema che riguarda il trasporto, non in questo caso aereo, ma il trasporto via camion, l'autotrasporto, il Brennero. Se ne è molto discusso venerdì, nulla di fatto, molta delusione per la posizione del commissario europeo, con l'Austria che minaccia anche il blocco del traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Promo 24. Eolo, internet a banda ultra larga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultra veloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. Dunque, occupiamoci del Brennero, ma non del tunnel del Brennero che si sta costruendo, che sarà la galleria più lunga, ho visto, d'Europa, una volta terminata. No, del Brennero attuale, perché c'è stato un incontro dopo che venerdì scorso tra il ministro italiano Paolo De Micheli e la commissaria europea Adina Valnehan, proprio al cantiere del tunnel del Brennero a Fortezza. La De Micheli ha detto, ho chiesto alla commissaria di interrompere tutte le misure di divieti di transito di tir in Austria perché la posizione italiana è di ferma contrarietà rispetto alle scelte unilaterali che il Tirolo austriaco ha preso in merito al transito delle merci italiane. Ho chiesto appunto alla commissaria di interrompere queste misure e aprire un tavolo di discussione. I divieti vanno contro le norme europee. L'Austria stessa si è definita delusa dall'incontro col commissario europeo sulla questione del Brennero. Ha detto il cancelliere Sebastian Kurz, comprendiamo pienamente la delusione del governatore del Tirolo. E c'è anche la posizione del Sud Tirolo, meglio dire Alto Adige, perché sapete chi lo chiamo così, perché così. Perché il governatore dell'Alto Adige, Arno Kompascher, ha ribadito invece la necessità di affidare la concessione per la gestione del tratto italiano dell'autostrada del Brennero a una società in-house entro la prima metà del 2020, ma soprattutto ha detto che dovrebbe avere una portata massima oraria di mezzi pesanti che può variare tra giorno e notte, rendere possibile il transito di camion Euro 6. I rifiuti e i rottami da Trento però non dovrebbero più viaggiare sull'autostrada del Brennero e sostanzialmente avere altre limitazioni di transito. Addirittura è stato chiesto un numero chiuso per i mezzi pesanti di giorno e di notte, sistemi digitali di dosaggio agli ingressi autostradali, la riduzione dinamica della velocità per i tir in caso di traffico intenso e il divieto di transito per i tir Euro 0 fino a Euro 3 tra Brennero e Affi. Siamo in collegamento con chi per Radio 24 segue il mondo dell'autotrasporto, e siamo una delle poche radio ad avere un programma dedicato, il programma è Container, in onda ogni sabato alle 13.15 su Radio 24. Massimo De Donato, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera. E dunque, qual è, alziamo un attimo il livello di Donato, lo sento un po' basso, qual è l'oggetto del Container? Detta così sembrerebbe, insomma, che il Tirolo e in parte l'Alto Adige non vogliono dare una limitazione al traffico di camion, di tir, che solo in minima parte riguardano le due regioni, perché in realtà sono destinati ai paesi del nord o al resto d'Italia. Beh, in realtà effettivamente il Brennero è un sostanzialmente un traffico di transito, quello del Brennero, ed è un traffico particolarmente importante per l'Italia, perché tu pensa che al Brennero passano circa 200 miliardi di euro di merci ogni anno, rappresenta il 70% del traffico internazionale di merci che entra e esce dall'Italia. Quindi il 70% quanto, però. Puoi capire quanto sia importante per l'economia italiana questo nodo. Succede che l'Austria già da diverso tempo, già dagli anni 90, ha cominciato con una serie di restrizioni al traffico pesante, tutte, lo ricordiamo, bocciate dalla Corte di Giustizia europea, per cui i tentativi sono stati tanti, compreso quello attuale, cioè il divieto settoriale di cui se vuoi ti parlerò tra poco, E quindi non è la prima volta che l'Austria cerca di bloccare questo traffico. È ovvio che tutti i territori e le zone di confine di cui parlavi tu, l'Alto Adige o il Sud Tirol, che dir si voglia, hanno tutto l'interesse a ridurre al massimo questo traffico. C'è quindi sostanzialmente da mediare tra queste due importanti posizioni, quella economica italiana che ha bisogno di far andare le merci, soprattutto in questo momento particolare nel centro Europa, e ovviamente quella dei territori che si vedono attraversare da questi tir che rappresentano il 97% del traffico al Brennero e che quindi vorrebbero diminuire questo traffico. E cos'è la selezione settoriale a cui facevi riferimento? È una nuova invenzione dell'Austria, dopo i divieti notturni, dopo i contingentamenti, i blocchi del traffico di vario tipo. Non è la prima volta, ma questa volta a quanto pare ci sono riusciti. Praticamente ci sono solo alcune tipologie di merci che non possono transitare su gomma, e in particolare queste merci dal primo gennaio non possono transitare su gomma sono il legno, la carta, i veicoli, le piastrelle, l'acciaio, il travertino, i cereali e i rifiuti. In pratica questi materiali possono viaggiare solo attraverso la cosiddetta autostrada viaggiante, e cioè un treno su cui salgono questi semirimorchi e che consente di attraversare il Brennero, che poi ovviamente prosegue il suo viaggio anche verso la Germania, verso il nord Europa. C'è solo un piccolo problema, che questo divieto, a parte che riguarda anche i veicoli Euro 6 di ultima generazione, almeno quelli immatricolati prima dell'agosto 2018, quindi praticamente va a colpire anche veicoli nuovissimi e quindi ambientalmente molto compatibili, ovviamente non emettono vapore acqueo, ma potete immaginare l'Euro 6 è un veicolo sicuramente molto meno inquinante già di un Euro 5, e soprattutto stanno causando dei ritardi e delle penalizzazioni molto pesanti alle imprese italiane. Una cosa per concludere, me lo chiedono anche gli ascoltatori, ma quando sarà completato il tunnel, raddoppio del tunnel Brennero, sarà, diciamo, la situazione diventerà più critica o migliorerà? Voglio dire, avremo maggiore possibilità di caricare, lo dico male ma per farmi capire, via treno, sui merci, i camion, e quindi in realtà sfoltire un po' il traffico su gomma, o invece capiterà l'esatto opposto? No, la situazione migliorerà sensibilmente. Io credo che una buona sintesi di quello che potrebbe fare l'Italia l'abbia fatta proprio il primo ministro Conte in una recentissima, di qualche giorno fa, audizione al Senato. L'Italia in questo momento è fortemente impegnata sul fronte del trasporto intermodale, quindi della possibilità di far viaggiare le merci utilizzando il camion, la ferrovia, la nave, ovviamente non in questi casi. Il tunnel del Brennero sarà pronto per il 2028. Dal sopralluogo che è stato fatto proprio in queste ultime ore pare che i lavori stiano andando avanti anche abbastanza velocemente, e questo consentirà di spostare dalla strada alla ferrovia un numero quantitativo di merci, cosa oggi realmente impossibile, perché la capacità di carico di questa autostrada viaggiante, la cosiddetta Rola, che tra l'altro è gestita dallo stesso governo austriaco, è di soli 167 treni al giorno. Ce ne servirebbero, secondo un recente studio di ANIPA, che è proprio l'associazione di Confindustria, almeno il doppio, quindi non ce la facciamo però fisicamente a trasferire queste merci dalla strada alla ferrovia. Questo appunto in attesa del raddoppio del tunnel del Brennero. Grazie anche a Massimo Di Donato, appunto conduttore di Container, che risentirete sabato, anche questo sabato dalle 13:15 in poi. Da Sebastiano Barisoni invece l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.